Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. L'indice prevede di parlare di risposte senza domande, di nuovi focolai di rivolta proletaria, di ozio, guarda caso, di posta elettronica, della morale delle gambe, di canottiere, chi lo sa se ce la faremo, anzi no, sicuramente non ce la faremo, vai.